Siamo nuovamente dopo la settimana scorsa con Annunzio Sonno del Comitato per Bersani e Cinisello Balsamo. Un commento dopo questa vittoria abbastanza schiacciante nel Nord Milano. Va bene, il Nord Milano era, come abbiamo già detto, era prevedibile che ci fosse stata questa festa, diciamo, ecco, questa riconferma. Quello che ci sorprende positivamente, evidentemente, l'aumento dei voti che ha avuto Bersani nonostante il calo dei partecipanti. Questo ci sembra una forte sensibilità, una preferenza che esprime sicuramente un segnale politico ben preciso, anche se evidentemente non possiamo trascurare il consenso che ha avuto Renzi, che sicuramente segnerà anche la vita politica, però è evidente che la gente, i cittadini del centro-sinistra hanno ben valutato a chi poter affidare questo paese. Ecco, facciamo un salto dalle primarie nazionali alle primarie regionali. Sabato prossimo si vota per scegliere il candidato presidente del centro-sinistra nella regione Lombardia. Sembra che il centro-sinistra, il Partito Democratico, convergerà in maniera unitaria su Umberto Ambrosoli. Quale può essere il significato di queste primarie nazionali rispetto alla regione Lombardia? Ma i commenti che ne vengono fuori non sono così automaticamente legati. I candidati che fanno riferimento al Partito Democratico per le regionali sono ufficialmente uno che è Ambrosoli, ma c'è anche la Kusterman che è comunque attorno al Partito Democratico. La stanchezza sicuramente è molto forte, i cittadini hanno dimostrato che sono sensibili a quelli che sono questo strumento, le primarie, se non vengono rovinate. Pensiamo che sicuramente il risultato sarà importante. Non ci Quindi, aspettiamo il risultato, evidentemente, di queste primarie. lei quindi crede che anche in Lombardia si possa però costruire una coalizione che possa puntare a ribaltare il governo che da tanti anni è in mano al centrodestra nella regione? Sì, questo sta avvenendo a differenza delle nazionali, si sta coalizzando tutto il centro-sinistra, ci sono anche sensibilità di associazionismo molto forte, società civile che sta prendendo contatti, questo ci fa presagire che comunque un'attenzione attorno al centro-sinistra sta marcando una certa attenzione. Questo è dovuto anche sicuramente alla fine di alcune regioni come la Lombardia, alla fine politica che hanno fatto il governo dopo di tanti anni di centrodestra.